A best friend sleepover? Yay! Yeah, sure, yay! We'll make popcorn, stay up all night, and I'll teach you my secret language. Op. Sounds great. Nope. Sounds gop-rop-e-a-top. Yeah, I'm gonna go pack a bag. No, you're not. You're gonna pop a cop-cop. A bop a gop. Così. La sigla nuova per un argomento nuovo. E che sigla. E che sigla. Per chi non l'avesse riconosciuto il... Vabbè, ma chi? Lo spot. La sigla lo sapete chi è. Dai, allora, sondaggione della settimana. Chi è, di chi è, di quale telefilm è la sigla che vi abbiamo appena fatto sentire? Ce lo scrivete a postawombat@insiberia.net. Brava, ricorda sempre, ecco, i nostri... i contattini. Ho un problema con il cavo del... Mi si sente? Sì, mi si sente, sì, sì, sì, sì, sì. Bene. Invece, per chi non l'avesse riconosciuto, lo spot barra sponsor di oggi è stato gentilmente offerto da The Big Bang Theory. Perché? Perché? Questa è una delle tante chicche della serata. Perché? Perché la puntata di oggi parla di una cosa... glossopoiesi, una cosa abbastanza... una di quelle definizioni che non vorresti mai trovare nei cruciverba. Dice sì, di branca della linguistica che studia... 12 lettere! Che cazzo, oddio, non lo so. Sì, so calcolare molto velocemente. Accidenti, glosso... glossopoiesi. Sì, faccio un calcolo immediato, però poi non, magari non la so scrivere. O è genialità o è autismo. Penso la seconda che hai detto. No, la seconda no. E insomma, perché parliamo di glossopoiesi, slittando ancora di una settimana la fine, diciamo, delle nostre puntate sulla punteggiatura? Perché? Beh, c'è tempo. Sì, ma d'altronde. Poi quella... è utile anche più avanti per fare un po' di ripassini per i nostri amici studenti, per ritirare fuori la sigla dei ragazzi della terza C, chiaramente. Perché domenica mi sono svegliata cantandola. Oh mamma, è stato un risveglio terribile, tipo dopo la buffata di involtini primavera al ristorante cinese. Non è positivo per niente. No. Mi sentivo Sacchi, ecco, che schifo. E insomma, glossopoiesi perché? Perché lo scorso 22 febbraio, nel silenzio totale da parte dei mezzi, insomma, dei media, è mortola. Oddio, no, non posso averlo detto davvero. Crepato, è morta Ursula K. Le Guin. È mortola. Sta perfetto, una sintesi proprio. D'altronde la ricorsività del linguaggio ci fa fare anche questo. Una scrittrice piuttosto famosa per i suoi romanzi di letteratura fantastica, che era nata a Berkeley, quindi patria luminosissima di letterati, soprattutto di scrittori dei romanzi novecenteschi americani. E, visto che si dice letteratura fantastica, vi promettiamo che un giorno parleremo anche di Todorov. Fantastico. Bisognerà per forza mettercelo. Eh sì, però perché Ursula, che era sì una delle principali autrici di fantascienza mondiali, lei era anche una glottoleta, era una femminista, una pacifista, era un'utopica, nei suoi romanzi si trova molto spesso il tema dell'utopia, ma è stata anche una grande studiosa di glottopoiesi, quindi non ha scritto solamente il ciclo di Earthsea, che è stato poi ripreso anche da Miyazaki in un paio di suoi cartoni dei racconti di Terramare, appunto. Tra l'altro a Ursula non sono piaciuti. Davvero? Sì, Miyazaki le aveva fatto una proposta di rendere, diciamo, una delle sue storie come cartone animato, di insomma trasporla in cartone animato, ma lei non ha mai voluto. Poi si è convinta. Miyazaki ha fatto i racconti di Terramare, che sono bellissimi, e a lei non sono piaciuti. Perché no, probabilmente non era quello che voleva per il suo romanzo scritti. Fantastico e difficile. Capito. Lo scrivi, ti immagini una cosa, poi arriva un altro fuori di testa così. E fa tutt'altro. Miyazaki altrettanto è bello sicuramente, però... mica è arrivato il primo che passa. Esatto. Cioè, però sì, immagino, deve essere difficile. E quindi per questo parliamo di glottopoiesi, non di letteratura fantastica, ne parleremo un'altra volta, ma di glottopoiesi. E poi vediamo che intanto ci delizi Nenia con un pezzetto musicale. Sì, però ecco, vorrei farti una proposta. Sì? Quello che tu volevi mettere dopo io lo posso mettere per primo. Va bene, facciamo una... No, anzi faccio così, ho cambiato idea. Facci lei, ci metta quello che ci vuole. Thank you. vi abbiamo fatto rilassare, sì o no? Questo giovedì sera, un po' giusetto. Ah, con questo tempino. Madonna, se ne può più, ma quando arriva le... Per poi maledirla. È chiaro. Ovviamente, quando arriva... No, io non la voglio proprio. Niente? No, niente. Nemmeno quando fa tanto freddo, non ho quei picchi di... Mai. Eppure sarebbe meglio l'estate. Facciamo aprile, una bella serata tiepida d'aprile. Si tiene ancora la felpa, però insomma... Sì, la felpa io l'ho levata il 23 marzo. Maglietta. Beh, l'anno scorso è stato... Annus poco mirabilis, nel senso è stato veramente caldissimo. E a proposito di caldo, vi faremo venire un caldo stasera terribile, perché l'argomento è molto scottante. In realtà non ne parla nessuno da anni, probabilmente, però è molto... Scopriremo se c'era un buon motivo per non farlo. Tipo... Tipo alle 8:30 avremmo fatto soltanto metà della scaletta perché è un pippone lunghissimo. No, in realtà è divertente. È bello. Però forse lo è solo per noi, vediamo un po'. No, perché qua ci saranno un sacco di appassionati di Star Wars, vero? Trek. Non è Trek. Klingon. Aspetta. I Klingon, ragazzi. Trek. Scusate, noi non seguiamo molto... le peregrinatio sideralis, come dice il mitico Pericle Piola. Allora, che cos'è questa glossopoiesi? È l'arte, così vogliamo dire, di creare linguaggi artificiali in una maniera ben precisa. Si sviluppa la fonologia, il vocabolario, la grammatica, e per una ragione artistica, ausiliaria, logica o filosofica. E ovviamente il creatore di questi linguaggi è detto glottoteta o glottopoeta, a seconda che voi vogliate usare il nome verticale glottoteta, nome orizzontale glossopoeta. E quindi la nostra cara Ursula, avendo scritto tantissimi romanzi di fantascienza e fantastici, ha sviluppato in diversi di questi un linguaggio a sé, completamente inventato. Allora, qui abbiamo veloci come le faine. È arrivata una mail che specifica Star Trek, mi raccomando. Allora, non ci scrivono mai per farci dei saluti, per farci complimenti. Siete bellissime anche in radio. Siamo bravi e brillanti. Appena si scazza qualcosa che ha a che fare poi con i mondacci nerd, subito mail alla mano, tip era Star Trek, grazie. Star Trek, vi ringraziamo molto, sarete interrogati la prossima volta perché abbiamo la vostra mail e sicuramente vi siete firmati, ecco, per cui la prossima scusa volta, caro ascoltatore, no, andava detta perché c'è polemica. C'è polemia. Io ho anche un crocifisso qui, occhio. Bianco. Il crocifisso di Papa Francesco. Bianco su bianco, per non sbagliare. Madonna. O che mi metto oggi? Ma... Oh, mi hanno censurato. Sì, sono stata censurata. La forza Papa divina di Fra. Fra. Vai avanti, scusa. Vado avanti. La glossopoiesi, cari amici e cari fan di Star Trek e di Star Wars e Prot anche, è una strana branca della linguistica, anzi, per essere più specifici, dell'interlinguistica, e quindi di quella branca a sua volta della linguistica che studia ogni aspetto di comunicazione linguistica tra le persone che non possono o non vogliono farsi capire per mezzo delle loro lingue materne. Quindi l'interlinguistica studia anche come le lingue etniche e di conseguenza anche i nostri amati pidgin, che dovremo fare una puntata bellissima. Chiamiamo i nostri amici di Uru a fare la puntata sui pidgin. Sì. E come anche le lingue etniche e le lingue ausiliarie, quindi le lingue franche, che sono strumento di comunicazione internazionale, e le lingue pivot, che sono lingue naturali o artificiali che vengono utilizzate come intermediarie, diciamo, per le traduzioni, vengono studiate appunto dall'interlinguistica per il loro comportamento, e anche vengono studiate le loro possibilità di ottimizzare la comunicazione tra i parlanti di lingue diverse, per esempio impiegando quelle lingue internazionali come l'esperanto o appunto l'interlingua o anche il famoso per la scrittura Unicode che troviamo anche su, su OpenOffice e su Word. Quindi queste lingue sono controllate da uno studio internazionale e lo sono anche di conseguenza le lingue legate alla nostra amica glossopoiesi. Quindi, ricapitolando, vediamo che abbiamo il macro insieme della linguistica, l'insieme dell'interlinguistica e all'interno dell'interlinguistica abbiamo la glossopoiesi. All'interno della glossopoiesi poi avremo un sacco di altre lingue, tutte quante inventate. E siccome l'argomento è un po' difficile e più che altro dopo vi parleremo io e la Nenia di tutte le lingue artistiche con esempi bellissimi, vi mettiamo un pezzo che è effettivamente un pezzo perfetto perché è stato inventato, anzi il linguaggio che è stato utilizzato è completamente inventato di sana pianta ed è glossopoietico e suoni Gargamella. Thank you. come siamo faunine questa sera, come sì, siamo molto anche un po' di relax quest'oggi, sì, ci manca la vasca da bagno con la schiuma. Ah, bene, bello, eh? E invece no, invece abbiamo la glossopoiesi stasera. Pensa un po', che dire, continuiamo, ve la definiamo, sì, ancora un altro pochettino, sì sì sì, diamo un barlume di etimo, vai. Allora, la glossopoiesi è quell'attività di progetto e sviluppo di una lingua totalmente artificiale. Il termine deriva dal greco glossa, lingua, e poiesis, che significa creazione. Io sto mimando la tutto poietica, nel frattempo. Esatto. La radio per i non udenti. E dalla stessa radice del verbo poein, quindi creare, è derivato, voi non vedete la nenia, ma ha fatto una cosa molto cara ai bulgari. Deriva anche la parola poeta, perché appunto crea. Questo era più un scultore. Sì, un po' scultore. Quasi Rodin. Rodin. E preso atto del fatto che si parlano tante lingue diverse e che ciò comporta inevitabilmente delle incomprensioni, si può decidere di inventare una lingua per svariati motivi. Io ne avrei una bellissima da inventare, che si chiama il cazzo che mene. Che è di quelle che quando non ti voglio ascoltare non me ne frega niente, tiro fuori questa lingua. Perfetto. Che poi sarebbe la vecchia supercazzola, è chiaro, più o meno. E quindi, quello, insomma, è per una motivazione pratica, sì, non è né religiosa né no, filosofica. No, perché infatti ci sono delle motivazioni, no, che stanno alla base della creazione di una lingua. La supercazzola prematurata non è propriamente tra queste, e nemmeno fa parte di quelle lingue create per favorire gli scambi commerciali internazionali. Tutt'altro. Allora, nella glossopoiesi noi distinguiamo tre tipologie di lingue: le lingue artistiche, le lingue ausiliarie e le lingue logiche o filosofiche. Le lingue artistiche, in realtà, a regà, sono lingue che avete perfettamente presenti se siete fan di Tolkien. Infatti sono lingue artificiali progettate per essere utilizzate all'interno di opere letterarie, musicali o, di conseguenza, anche cinematografiche, oppure semplicemente per il vezzo del glottoteta o glottopoeta. A differenza delle lingue ausiliarie, quindi quelle internazionali, quelle logiche, le lingue artistiche possiedono sistemi grammaticali irregolari, proprio come le lingue naturali che noi parliamo, la differenza tra il tedesco, l'italiano e l'inglese, per esempio. E molte di queste sono state progettate per i mondi fantastici, come la Terra di Mezzo di Tolkien o l'Almea di Mark Rosenfeld, per esempio. La più importante tra le caratteristiche è la lingua, diciamo, è che si cerca di imitare la complessità e la storicità delle lingue naturali all'interno di queste lingue artistiche. E alcuni esempi sono appunto i linguaggi di Arda e della Terra di Mezzo, la neolingua di Orwell, creata nel 1984, e mi sa che c'è qualcosa di simile anche nella Fattoria degli animali. L'Optidepe del Memorandum di Vaclav Havel, il Nadsat, ragazzi, famosissimo, non tanto nella traduzione italiana quanto nella versione originale di Un'arancia a orologeria di Anthony Burgess, che è anche conosciuta come Arancia meccanica nel film, e il Marain di Jan Banks nel ciclo della cultura. Non solo, Ursula Le Guin, Ursula Kay, utilizza il pravico nel romanzo I reietti dell'altro pianeta. E soffermiamoci un attimo su questa lingua, perché è molto, cioè non tanto nella pronuncia, nella sua costituzione, perché è molto bella. La premessa di diciamo circa questo linguaggio è una filosofia anarchica. Per esempio, all'interno di questa lingua non esiste la proprietà privata, gli aggettivi possessivi come mio, tuo, suo vengono evitati e vengono rimpiazzati da un articolo generale, il. Di conseguenza c'è anche un'uguaglianza dei sessi e non esiste il termine impravico per indicare cosa fa un uomo a una donna e viceversa, per esempio durante un rapporto sessuale consensuale. Esiste solo il verbo intransitivo fare l'amore, che deve avere ovviamente soggetto plurale, noi, voi, essi. E per un atto sessuale che viene visto generalmente come un'imposizione, un segno di dominazione, la sola alternativa che Ursula consente è violenza carnale. Per cui diciamo che appunto essendo femminista, anarchica e essendo stata anche insomma, all'interno di diversi movimenti del 68, per esempio, aveva una visione abbastanza, come dire, ampia e la trasmetteva anche all'interno del suo operato. Non solo, poi abbiamo anche il Navi del film Avatar che io boh, non ho mai visto, non so voi. Tu l'hai visto, Io Nene? sì, l'ho visto, Com'è? Io ma non me lo ricordo. mi ricordo, sono tutti blu. Sì, volavano, andavano qua, là, su e E giù. parlano il L'ho Navi. visto in 3D, quindi l'attenzione battuta ai super effetti, però in Chiudete. sostanza non Sa quanta fuffa ci mi fanno ricordo tanti vedere. grandi effetti, niente di Niente di che. che. Cioè, sì, la prima volta che mettevo questi occhialoni di nuova Si sta generazione, malissimo, tipo. ma non lo ripeterei, ecco. Preferisco spendere quei Ma soldi per il film in andando sé, al non per il pub. 3D, chiaramente. Insomma, Sono sono blu, volano. Ottimi Hanno il trucchi naso meravigliosi, da effetti gatto. Sì. fantastici. Però ecco, se mi chiedi la storia non me la Ci sono ricordo. queste mini blu Che che vola, volano. è tutto così, no? È veramente è imbarazzante perché non ti saprei dire nient'altro. A Bellissimo. distanza di anni, ma nemmeno a distanza di minuti all'uscita dal cinema, ho detto: ma che ho visto? Ma vabbè. cos'era? Però interessante, Completamente sì. memoria a breve termine. Sì, come quando fa vai alle giostre, che hai fatto una cazzata, però sei lì per lì, dici, ah, guarda, però. Ecco, Esatto, gli autoscontri in genere. sì, così. Quello. E quindi che dici? Facciamo ascoltare un pochino Sì. di Nadsat, che Eccolo. ovviamente poi vi spiegheremo una cosetta. Georgie Boy. I've taught you much, my little droogies. Now tell me what you had in mind, Georgie boy. Oh, the old Molucco Plus first, would you Molucco not Plus, say? eh? He's coming to sharpen us up. Some of the Molucco Plus. But you especially, we have the Yeah, start. you guys first, because we've got start on you. Yeah, Molucco Plus, eh? Yeah. As we walked along the flat block marina, I was calm on the outside, but thinking all the time. So now it was to be Georgie the General, saying what we should do and what not to do, and dim as his mindless, grinning bulldog. But suddenly I vidded that thinking was for the gloopy ones, and that the omni ones used like inspiration and what bog sends. For now it was lovely music that came to my aid. There was a window open with a stereo on, and I vidded right at once what to do. E questo era. Si sente giusto all'inizio il Nadsat. Che vuol dire il Nadsat? La Se Nadia mi sa non. qualcosina. Sì, non sono sicurissima, però deriva dal suffisso del teen, però in russo, quindi è lo slang d'adolescente, siccome c'è Esatto. questa influenza anche del vocabolario russo nel Eh Nadsat, sì. allora è stato chiamato così per riferirsi al teenager russo, il suffisso. E infatti poi ci sono un Però sacco di letto altre. così qua e là, niente di certo, No, ma invece mi sa che come Wikipedia insegna. Wikipedia, ya. Wiki. E poi vi facciamo sentire invece la versione in italiano per farvi capire come il Nadsat non sia stato possibile tradurlo, perché è effettivamente abbastanza complicato. Le donne a Dublino hanno l'aspetto riviro, allora mi incontrai il cuore per svermoli malor, hanno l'aspetto riviro. Le donne di Dublino una cosa che non mi era mai piaciuta era la vista di un vecchio sporco sbronzo che abbaia canzonacce care ai suoi padri e procede di rutto in rutto come se avesse tutta una lurida orchestra nelle sue putride budella. Non li ho mai potuti sopportare, di qualunque età fossero, ma meno che mai quelli stagionati come era questo. E avreste qualche spicciolo da darmi, fratelli? Avanti, fatemi fuori, sporchi vigliacchi! Io tanto non voglio vivere, non in uno schifo di mondo come questo! Oh, e che ha di tanto schifoso questo mondo? È uno schifoso mondo perché non c'è giustizia, non ce n'è più! È uno schifoso mondo perché adesso i giovani maltrattano i vecchi come fate voi! Oh, no, per i vecchi non c'è più aria, aria! Allora, che razza di mondo è questo? Uomini sulla luna, uomini a spasso intorno alla terra, e non c'è nessuno che rispetta la legge, nessuno che tiene l'ordine, nessuno più! Oh, dolce patria, difesato, e tu... Ecco, questo era un altro estratto in italiano da Arancia Meccanica e appunto utilizzato insomma qui alla brusca per farvi capire come in realtà il Nadsat non sia stato tradotto. Forse c'è qualche piccolo passaggio con un intricato gioco di parole che viene riproposto spesso, ma non è presente in tutte le scene, anzi è presente in pochissime, e questa è una scena dove viene appunto praticata, o meno l'incipit, dell'ultraviolenza, come abbiamo sentito nella parte inglese, che è il momento in cui, nel frammento in inglese che abbiamo fatto ascoltare, che è il momento in cui Georgie Boy viene fracassato di botte. E detto questo, possiamo passare alle lingue ausiliarie. E sono molto particolari queste, perché vengono intanto abbreviate in LAI o LIA, quindi derivanti dal termine inglese International Auxiliary Language, ma abbreviato anche in AUXLANG o IAL, e sono lingue artificiali create per la comunicazione tra persone di differenti nazioni che non hanno in comune una stessa lingua. Quindi è un principio che verrebbe detto democratico, in cui si fa tabula rasa dell'utilizzo dei propri linguaggi, della propria lingua madre o materna, per favorire un linguaggio che viene coniato espressamente per comunicazioni tra due parlanti di madrelingua diversa. Il termine ausiliario appunto implica il fatto che si tratti di una lingua addizionale proposta per l'apprendimento come seconda lingua a tutte le persone del mondo, in maniera da sostituire, come si diceva, la loro lingua nativa. E alcune lingue sono state create per, si direbbe, no? È come quando si dice metto la panna per alleggerire il mascarpone. No, tipo, e queste lingue sono state create per facilitare la comunicazione. Sono ovviamente l'esperanto, e questo era chiaro, l'ido, l'interlingua, il volapük, il glosa e altre. Come mi pronunci bene il volapük? Perché c'è questa diesi, volapük. Come me lo pronunci? Me lo puoi ripetere, per favore? Volapük. Le mie origini lapponi, no? Lamponi. Lamponi. Meglio, eh. Lampioni, le immagini lampioni. Quelli, quelli sai quanti ne abbiamo presi? Presi del, del lampionato in fronte. E comunque quell'idea ovviamente... Stand. In obliquo però. In obliquo, dritti proprio. Proprio di sghimbescio da parte a parte. Sì, ma anche proprio perfettamente centrale, tipo spartiacque il corpo. Insomma, era ovvio che l'idea dell'esperanto e del, del Volapük non raggiungessero un grande consenso. Anche se alcuni rimangono dell'idea che sia necessario perseguire una politica ufficiale per arrivare a una lingua universale condivisa, cioè praticamente gli illumini, oltre l'illuminismo. Beh, però se si fa, si fa, insegni, dai, cioè così coinvolgiamo tutti. Eh sì, infatti, allora tutte queste lingue sono state progettate più o meno tra la fine dell'Ottocento e i primi, diciamo, i primi vent'anni del Novecento, dove appunto la lingua dei segni non, non era ancora tanto presa in considerazione, per cui sono stati proprio esulati. Però io sarei del parere, sì, di utilizzare i gesti, anche perché in bus finalmente si riuscirebbe a stare in silenzio. Sì. Sentirebbe giusto lo sfregarsi, sì, sì, dei perfetto, giubbini. Perfetto, guarda. Ma io lo so che tu stai correndo perché vuoi ascoltare questo pezzo. Lo vuoi ascoltare subito o te lo faccio sentire dopo? Dimmi, dimmi la verità. Subito. Lo sapevo. Subito, è un pezzo bellissimo. Bellissimo. In esperanto. Por danza di la bambole, se sa sieno, pule retto da charmo, pule retto da charmo, un petto lemo, alla supro, la supro, alla supro, la supro, almeno spica, e pariggio smarristo, vai pariggio smarristo, se vola svise, vola svise, vola svise. Danzu la bambole, danzu la bambole. Vorrati in cielo, che se sa slerto, ne punch tu parego, ne punch tu parego, con supplemento, alla supro, alla supro, alla supro, alla supro, almeno smi, cai fariccio smarristo, cai fariccio smarristo, se vola svise, vola svise, vola svise. Tan sulla bambo, tan sulla bambo. Naiva miro, charmi vere galantas, charmi vere galantas, al iunulino e alla supro, alla supro, alla supro, alla supro, almeno spimmi, farrigio sbarristo, hai farrigio sbarristo, se volas vi, se volas vi, se volas vi. Danzu la bambo, danzu la bambo, danzu la bambo. Nezze sassie, pulereto da charmo, pulereto da charmo, un petolemo, alla supro, la supro, alla supro, la supro, almeno spica, il fariccio smarristo, vai fariccio smarristo, se vola svi, se vola svi, se vola svi. Danzu la bambo, danzu la bambo. Finale di Pelle Rossa all'attacco sui cavalli senza le briglie. Vi abbiamo fatto ascoltare un pezzo molto facile da capire, è la Bamba in Esperanto Dan sulla Bambao. È bellissimo. Quasi brasiliana in certi momenti. Sì. Tra il brasiliano e il rumeno, che, ecco. Proprio... Effettivamente prende tutti e due. Esatto, prende questi due punti che in realtà mi sembra siano... Guarda, potrebbero essere quasi la stessa... No, no, ho detto una cazzata grandissima. Il Brasile è molto più a sud. Ciao a tutti gli amici della Romania. Ciao a tutti gli amici, tutti gli amici del Brasile. Ho sempre ammesso la che Nina si sappia dove... Ma se il è sotto l'Alaska, esiste. Come il Molise, Brasile, Molise, il Brolise, abbiamo creato il Molile, vabbè basta. Partita la cazzina, dai. Ah, volevo ringraziare anche Nautodate che è arrivato in regia e mi ha portato la birra. Che bravo, guarda, io non ho parole. E siamo arrivati all'ultimo capitolo della saga. La lingua logica. Non abbiamo in realtà nessun contributo audio da farvi sentire per quanto riguarda la lingua logica. Perché è logica. Che è logica, è noiosa anche ed è filosofica. Esatto. Quindi c'è poco da ascoltare. Che in inglese si chiama? Non lo so. Log lang. Guarda. Log. Già questo log a me fa venire l'ansia perché mi fa venire in mente il logaritmo, la professoressa Prandini, il liceo. Tu sai che cos'è un logaritmo? No. Cosa sottende? Ma la domanda che mi dovresti fare, tu vuoi sapere che cos'è? Brava, tu sei sicura di voler sapere? No, perché io non lo so, per cui non ti potrei mai dire... Allora basta essere sinceri, ecco, ragazzi, quando la prof vi interrogerà, se qualcuno di voi l'ascolto dei genitori, insomma, rispondete così alla prof. Lo sai che cos'è un logaritmo, Maurizio? Maurizio, vabbè. No, non lo voglio sapere. Maurizio, a caso. Allora, questa lingua logica è una lingua ovviamente artificiale perché appartenendo alla glossopoiesi non può essere altro. Ed è progettata per, sentite un po' il pippone, verificare o dimostrare una certa ipotesi circa il funzionamento delle lingue e il loro potenziale. Cioè, è come darsi la zappa sui piedi. Sì. Esatto. Quello è, punto. La puntata è finita qui. No, abbiamo ovviamente tenuto alta l'attenzione con le cosine più carine, Arancia Meccanica, Dansur la Bambao. Questa però va ammazza tutti, prima di cena. Cioè, se state prendendo lo spritz... Quella, sì, quella proprio da intorto totale. Cioè, qui proprio la gente stava... Ma chissà se ci sta ascoltando male. Qualcuno... con le cuffiettine nei bar di Firenze, sta prendendo l'aperitivo e si sta ascoltando un glo qualcosa poiesa. Scusami, fa un gloss poiese on the rocks. Oh, sarebbe bello se qualcuno si stesse ascoltando dai bar. Mi ci aggiunge due vocali, mi grazie. Mi ci aggiunge due vocaline, per favore. No, il Klingon no. Mi ci mette il soggetto nullo, per favore, grazie, gradirei. Mi spiace, non me l'hanno portato i fornitori. Posso aggiungere due goccine di... Sottinteso. Esatto. Posso aggiungere due goccine di Ladan o il Tokipona. Ecco. Tokipona va alla grande. E... Che no, fave. Ora spero ce la racconti tutta, va fino alla fine, vogliamo sapere. Quindi, lingua artificiale, progettata per verificare e dimostrare una certa ipotesi circa il funzionamento delle lingue o il loro potenziale funzionamento. Di solito questi sono costrutti che vengono considerati al pari di esperimenti filosofici, in particolare logici. Le lingue logiche sono state a volte considerate candidate per la creazione di una lingua ausiliaria internazionale e alcune lingue intese come vere e proprie lingue ausiliarie, che fatica, è difficilissimo. Ausiliarie internazionali possiedono spesso aspetti di costruzione logica, come ad esempio il fatto di essere maggiormente regolari e sistematiche rispetto alle lingue naturali cui attingono. Capito. Sentito che... Però... Sono anche interessanti. Con notevole portamento. Sono interessanti in realtà, sono carine. Sì, in realtà sì. Sono un po' difficili. Tra l'altro ci sono, mi pare che nella facoltà di semiotica di Bologna ci sia vengano effettuati degli studi particolari sulle lingue logiche. Sì. Sì. Non mi ricordo chi è il docente che l'ha fatto, non è stato Eco a portare questa. Ve lo diremo. Beh, ecco, poi che abbiamo citato la settimana scorsa con quella cosa bellissima, meravigliosa, la fenomenologia di Mike Bongiorno. E abbiamo però, Basta, eh? Basta. Due puntate di fila, ora non è che ogni volta bisogna arrivare No, non qui fa. con Io Umberto nel lo taschino. ribadisco, ogni puntata c'è qualcuno o qualcosa che mi è antipatico. La volta scorsa era Eco, ma poi è stato ovviamente vinto da Mike Buongiorno. Sì, chiaro. È stato Quindi ancora battuto. mantenevi un po' Sì, di sì. livore per Eco e dovevi ritirarlo Esatto. fuori, ho capito. Ma anche Arancia Meccanica è un film che io non Ecco. riesco ad apprezzare fino in fondo. È bellissimo tutto Guarda. quanto, ha voglia con queste musiche di Ludovico Van, ma grazie a cazzo. Sono fatta così. A No, no, te piace, infatti. Nenia? Dì la verità. Sì. L'ho rivisto tante, Georgie tante volte. Boy. Sì, mi Anch'io è quando sempre c'è lo guardo sempre, piaciuto. però poi non dormo per due notti. No, quello no. Il sonno non me lo leva nessuno e niente al E mondo. neanche Georgie Boy. No, no, no, no, no, anzi. Solo il raffreddore, che poi Che non sentirete hai più fa. questa settimana. Come no? Ce l'hai ancora? Non, non. Date consigli alla nenia su come sconfiggere il raffreddore senza prendere il Tachiflu all'indirizzo postawomat@insiberia.net. Non La birra dite. Weiss. La Ah. birra Weiss mi aiuterebbe in questo momento. Vediamo, vediamo se te Temo la che qualcuno qua meriti. nei paraggi stesse ascoltando, Ecco. Tipo qualcuno di là. Ecco. Ci penso io a te dopo quando abbiamo finito la trasmissione. Ecco. Ma diciamo che differenza c'è tra una lingua logica e una lingua filosofica? Le lingue logiche sono lingue progettate per permettere o per far rispettare, attenzione, l'intento sbirresco, affermazioni prive di ambiguità. Di solito sono basate sulla logica dei predicati verbali, ma possono anche essere basate su altri sistemi di logica formale. Io non ho capito un cazzo di questa definizione. Vabbè. Le due lingue logiche più note sono le lingue di predicato Loglan e il suo successore Logban, che mirano a eliminare le ambiguità sintattiche e a ridurre al minimo anche l'ambiguità semantica. Dovremmo forse fare un ripassino sulle varie ambiguità. Avevamo fatto una puntata bellina Sì, all'inizio della tipo prima ci serie. mettono lo zaino, può voler dire lì ci mettono lo zaino, oppure ci Loro mettono ci loro a mettono. noi lo zaino, quella dovrebbe essere un'ambiguità Sì, formale. La sintattica quindi. è quando ne sto cercando uno. Aspetta. Oddio. Ti lascio il tempo di Sì, pensare e sì, intanto sì. spiego le lingue Vai. filosofiche. Vai. Ora me ne faccio venire in mente una. Mi Vai. metto le cuffie e non ascolto il Sembra la signora pubblico. Longari, sembra. Che non è mai esistita la signora Longari. No, infatti. Allora, le lingue filosofiche sono progettate per riflettere alcuni aspetti, ovviamente, della filosofia, rispettando in particolare la natura o il potenziale di una lingua. Il Ro, che è appunto una lingua filosofica di John Wilkins, personaggio reale Edward Power Foster, costituisce le sue parole servendosi di uno schema ad albero. Attenzione, in questo romanzo si utilizzano quegli schemi ad alberi tanto cari alla linguistica basilare che viene studiata. Sto Ce facendo l'ha, ecco, anche io in questo momento, ne ma sta facendo. non mi ricordo. Perché sono dei sistemi, insomma, se le cercate su internet vedrete tantissimi esempi, dei sistemi per cercare di comprendere quali sono le relazioni gerarchiche all'interno della frase e cercare di capire qual è il peso che queste relazioni assumono. E non solo, abbiamo anche Cool di tale John Quaida, una lingua progettata per essere il più concisa possibile. Il Ladan di Suzette Haden Elgin, progettato per lessicalizzare, grammaticare concetti, facendo importanti distinzioni a livello femminile, quindi per le donne, basandosi sulla teoria che viene definita come teoria del gruppo muto. Infine abbiamo il Toki Pona di Sonia Helen Chiesa, che invece è basata addirittura, pensate un po', sulla religione, su una religione che è il taoismo. Quindi questo è quanto per farvi un ulteriore riepilogo, visto che sono le 20:24, noi cerchiamo sempre di essere puntuali e brave. Possiamo dire che abbiamo quindi la linguistica come macro ambiente, diciamo, al cui interno si colloca l'interlinguistica, quindi la linguistica che studia le lingue artificiali che servono per comunicare tra parlanti che non sono madrelingue, che sono madrelingue diverse, quindi devono trovare un metodo per riuscire a comunicare, a mercanteggiare e via dicendo, oppure lingue artistiche anche. E all'interno quindi dell'interlingua troviamo la glossopoiesi, che è invece quella branca della linguistica che serve a studiare ma anche a formare queste lingue, che sono, come abbiamo visto, suddivise in lingue artistiche, in lingue ausiliarie e in lingue logico-filosofiche. Questo è quanto. Gli esempi più eclatanti che abbiamo trovato sono il Klingon, il Nadsat di Arancia Meccanica, oppure anche il linguaggio di Tolkien, di Tolkien, che troviamo nel Signore degli Anelli. E vediamo se la Nenia è riuscita a trovare un'ambiguità sintattica. Perché ce li avevo tutte nella mia testa, me erano scomparse. Allora sono andata su Wikipedia, mi sono, leggendo quella, e me ne sono ricordata una molto carina. Una vecchia porta alla sbarra. Una vecchia porta. Ah, bellissima. Sbarra. Una vecchia porta alla sbarra. E poi tante altre, tipo il poliziotto ha visto la ragazza col cannocchiale. Chi aveva il cannocchiale? Mentre la mamma cucina il pollo ride. No. No, perché quello è un soggetto. No, no. Mentre non la mamma è, cucina no. Il pollo ride. Ho sbagliato. Devo ricominciare a studiare. Sì, ce n'è tante. Questa, insomma, dai. Questa, yeah. Basta. Ma perché dobbiamo. Che quasi appuntamenti ci sono questo fine settimana? Ah, cara mia, te lo dico subito. Vi ricordiamo un po' che cosa succede nei meandri fiorentini e non. Allora, io so di due concerti, uno venerdì e uno sabato al Next Emerson. Wow. Ma di più non so. Ma di più non so. Questo era. Poi abbiamo, ci sarà sicuramente brutto tempo, quindi o andate in un posto di amici, oppure state a casa a leggere un libro e o a guardare la borsa dell'acqua calda Gomorra nei piedini. No, questo io non sono d'accordo. Bisogna, quando fa brutto tempo, divano, copertina, sì, sì, libro e birrino. Gomorra libro. No. Sto iniziando a diventare contraria a Gomo, perché tutti ormai parlano. Sì, sì, sì, perché io non lo voglio vedere. Un linguaggio glosso poi mi dovete fare incuriosire. Vabbè. E no, che voglio si resistere. Fa? Quindi niente Gomorra per te, e nemmeno Suburra. No, voglio resistere. Sta senza benzer. Non ho resistito per Strange Things e ora devo resistere per Gomorra. Oh. Tra. Ecco. Che si fa? Allora ti faccio ascoltare una sfida linguistica e abbiamo finito qui, perché se non facciamo sappiamo i nostri che salutini ci sono in città, facciamo i saluti. Ricordatevi, c'è twitter.com/radiowombatfi. facebook.com/radio-wombat-firenze, la mail ve l'abbiamo già detta, il sito ormai lo dovreste sapere. Anche perché se ci state ascoltando siete... È chiaro. E poi basta, andate nel sito, date un'occhiata al palinsesto, ci sono tante cose nuove e anche l'informazione, ormai è partita alla grande. Alla grandissima. Ci sono picchi di ascolti, nemmeno Radio News 24.000 fa tutti questi ascolti, quindi baci e abbracci, vi lasciamo tanti, a questa tanti sfida fra i Klingon l'ubidao abidabi abidabi contro Klingon, sempre dei nostri amici divertenti di The Big Bang. Amici Sheldon Cooper, we love you. Baci, ci sentiamo giovedì prossimo, sempre qui alle 19:30, Accademia della Brusca sul Wombat. Ok. Ciao. Arrivedercela. Interesting. Very interesting. Yeah, we swung by her apartment on the way to the restaurant. They're going to be fixing it for a while. Wait. You saw her apartment? I did. Still a mess. Leonard? Yeah. Giorgio. Dachnep a penny. That's a bit. Why are you speaking Klingon? Why are you speaking English? This is ridiculous. Penny, do you remember when I taught you Obi-Dabi? A bab's a bowl, a boot, labita, bite, a boo. A bex, a bellabot. Debus, shabeldabin, nabo, abim, labiabing. A bif, labem, a bird, tabuldabim. A bits, a pasta, bibable. All right, yeah, stop that. You stop that. De yours, ah? Kuvak. Okay, that's enough. You know what? What is going on? Fine, I told Sheldon that her apartment's been finished, and you just said it's not, so now I'm all confused. Penny was just covering for me. My place has been ready for 2 weeks. How could you lie to me? She's enjoyed living with you. It's called being in love. Mm-hmm. And what's it called when you secretly get rid of all your husband's stuff? What? Is not true. Bernadette told Howard. Howard told me. Plus, I can see all my stuff is gone. Oh, so you believe your friend and your friend's wife and your own eyes over me?